Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un esordio narrativo, quello di Andrea Molesini, che finora è stato traduttore dall'inglese e autore di libri per ragazzi. Adesso con Sellerio pubblica Non tutti bastardi sono di Vienne, 366 pagine, 14 euro. Il libro ci porta in Veneto, dopo la rotta di Caporetto, in una villa signorile, troviamo il protagonista, il giovane Paolo, orfano, che vive con i nonni. Un eccentrico lui, una donna molto energica lei, e accompagnati dalla servitù e a una misteriosa ragazza. La villa sarà requisita dagli austro-tedeschi che diventano i padroni della zona dopo appunto la rotta di Caporetto, e diventa la villa palcoscenico di una convivenza ovviamente sul filo del rasoio tra gli antichi padroni, che devono fare buon viso a cattivo gioco, o meglio dovrebbero fare buon viso, perché la famiglia è coraggiosa e patriottica e i maschi finiranno in una bruttissima avventura che segnerà in particolare il destino di Paolo e del nonno. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Andrea Molesini. Buongiorno a lei. Andrea Molesini, questo romanzo è più un romanzo storico o un romanzo di formazione del protagonista, di Paolo? Beh, è tutte e due le cose insieme. È un romanzo di formazione perché è un 17enne che diventa 18enne in un momento difficilissimo nella storia d'Italia, perché è una nazione bambina che diventa adulta, che tra il 17 e il 18 dopo la rotta di Caporetto. Quindi è un romanzo di formazione sia dell'Italia che del suo protagonista, questo giovane Paolo Spada. Ed è anche un romanzo storico perché affonda le radici nel cuore pulsante di una nazione giovane che si scontra con una nazione vecchia, una che sta morendo e una che sta nascendo, l'Italia e l'Austria. Ecco, restiamo a questo aspetto storico. Lei affronta una pagina, quella della Prima Guerra Mondiale, che in fondo è stata abbastanza rimossa negli ultimi decenni dalla nostra letteratura anche. Come mai? Beh, l'ho affrontata un po' perché in parte, solo in parte, è un po' una storia di famiglia, perché la Villa Spada di Chefondola apparteneva alla mia famiglia materna allora, poi è stata perduta dalla famiglia, ma questo ha poca importanza. Quello che veramente conta, perché per me la Grande Guerra è stata una svolta cruciale per tutto il mondo occidentale, l'inizio del cosiddetto secolo breve, di un secolo abbastanza disgraziato che si apre con la Grande Guerra e finisce con l'89, insomma con il crollo del muro di Berlino. Nella Grande Guerra credo abbia aperto la via dell'industrializzazione e perfino della democrazia l'Italia, anche se passa attraverso la dittatura fascista poi del ventennio, però ha creato dei nuovi soggetti sociali, per esempio le donne, cioè l'emancipazione femminile anche in Italia, e non solo in Italia, è in gran parte avvenuta come conseguenza della Grande Guerra. A un certo punto uno dei suoi personaggi, Renato, fa qualche riflessione su un tema di cui parliamo molto in queste settimane, che è quello dell'unità d'Italia. Dice Renato: l'Italia l'hanno fatta i Savoia, la massoneria l'hanno fatta contro i preti, ma dietro c'è sempre stata l'Inghilterra che voleva ficcare un pugnale, eccetera eccetera. Ecco, questi sentimenti, secondo lei, queste parole che dice Renato, servono un po' a spiegare i sentimenti con i quali molti italiani affrontano questo 150enario? Ma forse sì, naturalmente in un romanzo, che non è un saggio storico, è altra cosa, i discorsi anche politici servono a mettere a fuoco la personalità di chi parla, e qui dovevo far capire che il Renato, che è parte dell'SI, cioè Servizio Informazioni, oggi diremmo l'intelligence dell'esercito italiano, ovviamente è un massone, perché erano quasi tutti i massoni il nostro servizio segreto, e non solo il nostro, e quindi esprime un punto di vista molto particolare. Non bisogna dimenticare che la massoneria ha un'origine inglese, molto prima, poiché Sonnino aveva la mamma, il nostro ministro degli esteri aveva la mamma gallese e non era cattolico, quindi ci c'è dietro un punto di vista che caratterizza molto il personaggio, più che dire qualcosa di, come dire, oggettivo sulla storia patria. Poi sa, adesso c'è grande confusione sotto il cielo, secondo me, non so, quello che forse io credo che la letteratura italiana in sé sia un motivo di unità nazionale. Basti pensare che io sono veneziano, e questa è una storia molto veneta, ma è pubblicata da un editore di Palermo, Sellerio, certo un editore molto sofisticato, molto nazionale anche, ma siciliano pur sempre, quindi questa è prova che l'unità d'Italia in qualche modo c'è, viva, respira. dire e dà la sua grande importanza. Uno degli elementi che emerge da questo suo libro è l'inflessibilità dei militari, che a un certo punto giustifica una svolta nella storia. Ecco, questa inflessibilità è più un carattere del barone von Flechsig o assume un valore più universale nel suo libro? Beh, credo che assuma un valore più universale. Talvolta gli uomini in questa situazione, diciamo così, drammatica, si trovano a dover scegliere tra la loro anima e tra la loro individualità, che può essere quella di persone buone, e il loro dovere, che può essere terribile, e chiamarli alla crudeltà, ad operare il male. E sono costretti dalle circostanze a scegliere per il male, per la violenza, per la vendetta e così via. Non è che nessuno viene giustificato dalle circostanze, a mio avviso, però certamente c'è qualcosa di demoniaco in ogni guerra, una sorta di essenza demoniaca che trasforma gli uomini e li mette a contatto la loro innocenza, la loro individualità, la loro intimità con questa necessità di essere violenti verso altri uomini e di uccidere anche se li ritengono non colpevoli in qualche modo, non particolarmente colpevoli. E questa è un po' l'essenza terribile della guerra, quindi c'è una meditazione in generale sulla mortalità e anche su questa scelta atroce che spesso la guerra costringe a fare tra il proprio io, che è un io di, diciamo, persone da bene che non vogliono uccidere, non vogliono operare il male, e la guerra che costringe a comportarsi da guerrieri e dunque a uccidere il nemico, a punirlo e così via. Senta, insieme a molte recensioni positive del suo libro ho letto qualche critica al titolo, lei lo riscriverebbe questo titolo? No, perché penso che malgrado tutto funzioni, è un titolo lungo, non tutti i bastardi sono di Vienna, è un endecasillabo con una piccola irregolarità perché l'accento è sulla quinta e credo che l'endecasillabo in qualche modo si riscatti da solo, rimane impigliato all'orecchio italiano e anche dice qualcosa perché è un libro molto, credo, inserito nella tradizione letteraria del nostro paese, insomma, non... sì, è un titolo che comunque è un titolo che colpisce, ma che può anche non piacere, evidentemente a qualcuno non è piaciuto, però credo che in qualche modo funzioni. Bene, grazie ad Andrea Molesini. La ringrazio io. Buona domenica. Una storia veneziana decisamente più romantica è quella raccontata da Andrea Di Robilan nel libro Un amore veneziano, pubblicato da Corbaccio, 306 pagine, 18,60 €. Qui siamo a Venezia nel 1753. La storia si basa su un epistolario autentico ritrovato dall'autore nell'archivio di famiglia a Venezia. E questo epistolario racconta di un amore impossibile tra la figlia del console britannico dell'epoca e un giovane aristocratico di Venezia. Siamo dunque nel periodo d'oro della città lagunare e incontriamo fra i tanti protagonisti anche Giacomo Casanova coinvolto nella storia. Insomma, una vicenda tutt'altro che sdolcinata, ma attentamente documentata, che ci permette attraverso una storia sentimentale di restituire lo splendore ma anche l'ipocrisia di quell'epoca. Tutt'altra esperienza di guerra rispetto a quella di Molesini troviamo nel libro di Chris Ayres, che è il corrispondente del Times dalla California, Corrispondenza di guerra per codardi, è pubblicato da Gabriele Capelli, una casetrice svizzera che è distribuita anche in Italia, 336 pagine, 21 €, ed è tradotto da Simone Garzella. Curioso lo spunto: un giorno il giornalista riceve alle 6:30 del mattino, mentre sta dormendo, una telefonata dal suo capo che gli propone di fare il corrispondente di guerra in Iraq, di seguire le truppe naturalmente come cronista autorizzato. Sulle prime il giornalista dice di sì per non rovinare la propria carriera, poi se ne pente amaramente, cerca in tutti i modi di evitare questo incarico, ma non ci riuscirà, e quindi il libro ci racconterà le varie tappe di questo suo percorso da New York a Kuwait City fino all'esperienza sconvolgente di seguire appunto le vicende belliche, vicende che naturalmente gli cambieranno la vita. Infatti il libro si conclude con questa notazione: adesso che so che cos'è la guerra, ho smesso di preoccuparmi della morte, non ho più paura di una bomba sporca in metropolitana, di un attacco nucleare su un Times Square. Stamattina cantavo sotto la doccia perché l'acqua era calda e nessuno stava cercando di uccidermi. Era una gioia pura e semplice. Posso solo sperare che duri. Ultimi arrivi. Vi segnalo di un nome molto noto, Francesco Alberoni, Racconti d'amore, curiosi e un po' irridenti, è pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 18 euro, sono 27 esperienze sentimentali che diventano, nella penna del sociologo e scrittore, differenti capitoli di un libro sull'amore. Poi un altro giovane autore italiano, Fabio Genovesi, che pubblica Esche vive con Mondadori, 390 pagine, 19,50 euro. Lo scrittore di mestiere fa, tra l'altro, il pescatore sportivo, e di questa esperienza si parla nel romanzo, in cui si intrecciano pesca, ciclismo, formazione all'età adulta, il tutto ambientato nella provincia toscana. E infine, agli appassionati di thriller nordici, un libro che arriva dalla Finlandia di Thorsten Pettersson, che è un docente universitario, che pubblica con Newton Compton L'alfabetista, 334 pagine, 9,90 euro. Il libro è tradotto da Mattias Raimondo e Martina Cocco e Kerstin Östgren. Attenzione, perché se vi piace questo libro che ci porta nelle plaghe finlandesi, ne seguiranno altri due. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un invito a essere misurati e tolleranti è quello contenuto nella lettera a un amico antisionista, pubblicato da Rizzoli, l'autore Pierluigi Battista, 127 pagine, 17,50 euro. Questo libro, sul quale si è riparlato nelle settimane scorse anche alla luce di una replica che ha fatto Sergio Romano, che a sua volta aveva scritto una lettera a un amico ebreo, e vuole riproporre il tema dell'atteggiamento che abbiamo nei confronti di Israele. Scrive Battista che solo su Israele, sulla questione palestinese, si esercita l'arte rozza della dismisura. Solo a proposito dello Stato di Israele, non dell'Irlanda o della Cecenia, possono venire in mente le enormità di José Saramago e Mikis Theodorakis, che paragonavano Gaza ad Auschwitz e venivano anche presi sul serio, conclude Battista. Su Israele, quindi, e sulle vicende del Medio Oriente esistono molti preconcetti, molti pregiudizi, molte ostilità che appunto questo libro cerca di sfatare. Battista ricorda come pochi paesi al mondo siano sottoposti alla minaccia quotidiana da parte dei loro avversari di essere annientati. Scrive infatti Battista: c'è nel mondo, fra tante cruente battaglie di confini, campi profughi, scontri etnici, massacri, orrori, terrori, una sfida esistenziale di portata altrettanto tanto drastica e radicale di quella lanciata a Israele dai suoi nemici. Israele, aggiunge, viene ripetutamente accusato di controbattere con reazioni sproporzionate. Ammettiamo che sia così. Trovate però qualcosa di più sproporzionato che esige la distruzione di uno Stato e di una nazione? E quindi il libro procede per cercare in maniera molto efficace di smontare questi pregiudizi, documentando con studi e testimonianze l'invito a essere misurati nelle critiche, ma soprattutto espliciti nell'accettazione della realtà dello Stato di Israele e del suo diritto all'esistenza. Sull'origine dello Stato ebraico segnalo il libro di Luigi Compagna, che è un docente universitario e attualmente senatore del PDL, Theodor Herzl, Il Mazzini di Israele, pubblicato da Rubbettino, 250 pagine, 15 euro. Per spiegare il sottotitolo, Il Mazzini di Israele, Compagna scrive che a suo modo Herzl ha significato per Israele quel che Mazzini ha rappresentato per l'Italia in termini di costruzione ideale dell'unità nazionale. La sua vicenda si avvicina a quella di Mazzini più di quanto Weizmann possa evocare Cavour o Jabotinsky Garibaldi. Fu infatti lo sforzo di Herzl, dimostra Compagna, a dare vita a uno sforzo politico unitario in grado di raccogliere le disparate vocazioni che sul finire del XIX secolo avevano animato l'ispirazione ad una patria ebraica in tanti paesi europei, non soltanto in quella di Herzl. Quindi questa lettura risulta utile per tutti, come scrive Francesco Cossiga nella prefazione. E qui troviamo la storia appassionata dello sforzo di Herzl, che avrebbe dato vita a un'inclinazione di carattere soprattutto culturale, una direzione strategica, politica, che portò appunto alla nascita dello Stato di Israele. Quindi questo libro di Compagna serve a capire il strato culturale, ideologico e identitario che consentì a Israele di nascere come Stato. Uno Stato che nell'interpretazione dell'autore si sarebbe appunto collocato sulla scia dei risorgimenti nazionali, anzi proprio della rivoluzione nazionale italiana, alla quale tanti ebrei italiani parteciparono unendo insieme l'aspirazione alla libertà religiosa con quella all'emancipazione del paese nativa. Un libro che contesta piuttosto radicalmente questa interpretazione, che ha fatto molto discutere innanzitutto proprio in Israele, è quello di un professore israeliano, Shlomo Sand, che è uno studioso di storia francese, il quale ha scritto L'invenzione del popolo ebraico. Il libro è pubblicato in italiano da Rizzoli, 536 pagine, 21,50 euro, e tradotto da Elisa Carandina. Sand vuole rivolgere, come scrive lui stesso, a Israele uno sguardo libero da preconcetti. Il suo sforzo è quello di mostrare che Israele è nato per porsi al servizio degli ebrei, non degli israeliani, e per fornire le migliori condizioni, lo scrive lui stesso, ai presunti discendenti di questo ethnos invece che a tutti i cittadini che vivono in questo stato e ne parlano la lingua. Insomma, gli ebrei, dice Sand, non costituiscono un popolo, e quindi l'autore piccona qui alcuni dei miti fondanti di Israele, fin dallo stesso esilio che la nazione ebraica avrebbe dovuto patire a partire dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Come ha scritto il New York Times, questo libro ha fatto discutere perché mescola serie ricerche storiche con teorie dubbie. La stessa recensione ricorda che potrebbe anche essere vero che nel 70 non ci sia stata un'immediata cacciata degli ebrei, ma è indubbio che quell'evento causò, scrive appunto questo articolo, un cambiamento nel senso degli ebrei di se stessi e della loro posizione nel mondo, e questo spiega appunto le polemiche ma anche l'attenzione che hanno accompagnato soprattutto in Israele la pubblicazione del libro di Sand. Un bel libro su un particolare importante del filone della cultura dello Stato ebraico è Yiddish, Ascesa e caduta di una nazione, di Paul Krivacek, che è un autore austro-britannico. Questo libro è pubblicato dall'Indau, 520 pagine, 34 euro, ed è tradotto da Federica Giardini. Qui si parte dalla visione canonica dell'impero romano che converte in nazione europea quello che fino allora era stato un popolo medio orientale nordafricano. Seguì da questo intervento dell'impero romano una separazione in due linee di discendenza del popolo ebraico, che portò poi a un rimescolamento dopo molti secoli nell'Europa centrale, dando vita appunto al popolo e alla cultura Yiddish. Questa diede vita a sua volta, come scrive Monio Vadia nella prefazione al libro, a una nazione, a un popolo dell'esilio, fra i confini, oltre i confini, a cavallo dei confini, una nazione non vincolata a uno specifico territorio né a vocazioni nazionaliste, con il loro tristo bagaglio di eserciti, guerre, conquiste, eppure nazione e popolo in tutto e per tutto, con lingua, cultura, letteratura, tradizioni, organizzazioni, scuole, amministrazione, nazione e popolo che si riconobbero interiormente in quanto tali. Fin qui Monio Ovadia. Insomma, la cultura Yiddish rappresenta una pagina capitale della storia della cultura europea, che poi si è trasferita ed è fiorita in Israele, ancora prima negli Stati Uniti, dove influenzò molto la formazione di una cultura americana. Sentite queste righe. La civiltà Yiddish è scomparsa dalla sua terra e la sua vera essenza è quasi dimenticata. Tuttavia, ha lasciato un segno indelebile, e non solo nell'Europa orientale. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, quando la sua fine era ormai prossima, l'emigrazione di massa verso gli Stati Uniti trasferì molti dei suoi principi, dei suoi valori e delle sue tradizioni dall'altra parte dell'Atlantico, dove esse contribuirono attraverso il cinema, la musica, la letteratura e le arti, per non parlare del commercio e dell'industria, a ciò che oggi consideriamo il modo di vivere americano, e poiché viviamo nell'era della globalizzazione, anche il modo di vivere del mondo intero. Tra i risultati di questa cultura in America ci fu anche l'hamburger, che era appunto il cibo che gli ebrei di terza classe che viaggiavano tra Amburgo e New York potevano permettersi di mangiare anche per rispondere ai propri precetti religiosi. L'altro filone fu quello degli ebrei che si erano stabiliti a ovest e principalmente nella penisola iberica, dove poi sarebbero stati cacciati nel 1492, diffondendosi in tutto il mondo. Questo filone è quello che costituisce i Sefarditi, e allora è dedicato l'omonimo libro di George Bossong, pubblicato al Mulino, 132 pagine, 13 euro, tradotto da Alessandra Saccon. Questa comunità ha avuto anch'essa una sua lingua, il giudeo-spagnolo, mentre l'Yiddish era quello degli Ashkenaziti, un tedesco ebraizzato. Le comunità, le due comunità dei sefarditi e quella yiddish, hanno ancora un'identità specifica, tanto che a Gerusalemme ci sono due rabbini, uno per comunità, con un'unica religione, ma con usi, costumi, modi di vita, abitudini alimentari, riti e liturgie diverse, e come ci viene appunto spiegato in questo libro. Il confettino. Vi segnalo oggi una collana utile per cominciare a far capire ai nostri ragazzi qualche concetto un po' complesso. È una collana ideata da Francesco Brioschi, editore, si intitola Grandi firme per piccoli lettori. Comincia Umberto Veronesi con Giovanna Gatti, La salute ai ragazzi, e poi c'è il volume di Pippo Ranci, L'economia ai ragazzi. Sono entrambi illustrati da Anna Ranci, 58 pagine e 76 pagine il secondo, costano ciascuno 7,90 €. E con questo ringrazio Margherita in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare le nostre trasmissioni. Vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro buona domenica.